Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e bentornati ai figli di Enea, storie di nuovi italiani. Anche questa sera una storia di un italiano che ha radici da qualche altra parte e che in questo caso ci racconta un mondo femminile. Nel 1931 Giulia Bazzini, che aveva 20 anni, e sua sorella Angelina vivevano in via Canonica a Milano e per pagare l'affitto lavavano i panni a domicilio. Un giorno alla porta bussò Ou Li Xiang, un giovane arrivato dalla Cina che faceva il venditore ambulante, e noi abbiamo ora Angelo Wu. Buonasera innanzitutto. Buonasera Valentina. Che ci può raccontare questa storia che io ho rubato dal suo libro L'altra metà del cielo, la vera storia dei primi cinesi in Italia, delle donne italiane che si unirono con loro in matrimonio, l'editore è il mio libro. Ma chi era Giulia Bazzini, Angelo? Intanto Valentina, nel leggere queste prime righe della storia di mia madre, e quindi ecco chi era Giulia Bazzini, mi ha commosso, perché rivivevo quel tempo che non ho potuto vivere, ma me l'ha fatto immaginare. Giulia Bazzini era mia madre, una donna che arrivava dalla campagna cremonese, arrivata a Milano, come tante altre donne di quell'epoca che venivano in città a cercare fortuna e che si imbatte coraggiosa in un immigrato cinese, mio padre Ou Li Xiang, che è stato tra i primi 50 cinesi a venire in Italia, tutti provenienti da un'unica regione, una regione dello Zhejiang. Mia madre insieme alla sorella lavavano i panni per potersi pagare il fitto e per poter iniziare la loro attività lavorativa. E mio padre andava, si serviva da loro per lavare le sue camicie, per farle stirare, per lavare i suoi panni, e così cominciò la conoscenza. Poi si innamorarono e nel 38 si sposarono. Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così. 23 vite di donne da cui discende la maggioranza delle famiglie cinesi a Milano, storia di amore, di talento, di coraggio, una storia davvero struggente che lei ha raccolto. Perché il punto di vista femminile, Angelo? Dunque, il punto di vista femminile perché... È molto bello, tra l'altro, che un uomo porti il punto di vista femminile. Grazie Valentina, devo dire che oltre che essere uomo l'ho sentita questa cosa, perché... della Cina dei cinesi si sa tanto e forse di troppo qualche volta, ma di queste coraggiose donne che hanno costruito le famiglie con questi cinesi, questi nostri genitori, per noi che siamo figli del primo flusso migratorio, nessuno aveva parlato mai. E l'idea venne proprio a due ragazze del nostro, noi abbiamo un gruppo su WhatsApp dei figli del primo flusso migratorio, e a due ragazze, io dico ragazze anche se sono oltre a 70 anni come me, e venne l'idea di scrivere qualcosa su queste donne per lasciarne una traccia ai nostri figli e ai nostri nipoti. E devo dire che pensarono a me e mi proposero la cosa, che io accolsi con grande piacere, e abbiamo... Di 50 famiglie ne abbiamo selezionate 23, come lei ha accennato, e di queste 23 famiglie abbiamo messo il focus sulle donne e da lì cercato di raccontare il loro coraggio, il loro ardore e anche il loro amore. Pensiamo che Valentina, a quel tempo, queste donne che arrivavano dalla campagna e quindi non conoscevano l'ampiezza della città, le varietà della città, si imbattono in questi immigrati cinesi con i quali non riescono a dialogare, non possono, parlano una lingua diversa. E quindi possiamo immaginare quali difficoltà, ma quali avventure queste donne, queste nostre mamme, abbiano dovuto affrontare per poi costruire famiglia. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme ai figli tuoi, oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendite. Si pensa sempre che sia una migrazione recente quella cinese in Italia, e invece no, è una migrazione che ha le sue radici appunto negli anni 30. Valentina, c'è una credenza più recente che posizione, come giustamente ha detto, intorno agli anni 80 l'immigrazione cinese. In realtà negli anni 80 c'è il boom del terzo importante flusso migratorio. Ma in realtà la migrazione cinese vera e propria comincia appunto negli anni 30. Anzi, i sinologi ci raccontano che i primi cinesi in Italia, a Milano, avvennero con la prima Expo milanese del 1906, dove proprio all'Arena, alla civica, Arena Civica di Milano, era grosso, tra l'Arena e l'Acquario erano posizionati gli stand della prima Expo milanese. Quindi ecco che l'Arena era affacciata sulla via Canonica, e i cinesi che 30 anni dopo arrivarono in Italia a Milano cercarono di riposizionarsi logisticamente nella stessa zona, appunto la via Canonica. Non abbiamo detto che lei è un imprenditore innanzitutto, è anche una figura di spicco della comunità cinese milanese e italiana. Come mai ha dedicato così tanto tempo a un libro? Non è la prima volta, tra l'altro, no? Beh, io scrivo da sempre, e sempre per la comunità cinese cerco di dare il mio apporto, se possibile, culturale anche. E questo raccontare di queste donne, e non solo della mia mamma, è stato un po' il voler mettere le radici a qualcosa che altrimenti sarebbe andata perduta. Devo dire, Valentina, che nel intervistare i figli e i nipoti di queste donne che io ho romanzato, ho raccontato e anche in parte romanzato nel libro, qualcuno aveva astento la data di nascita della mamma, e quasi nessuno aveva scritto il nome del padre con i caratteri cinesi che avrebbero potuto ricondurmi alla realtà vera del cognome. E quindi è stato un lavoro di costruzione, di analisi e di ricostruzione che, devo dire, alla fine mi ha veramente arricchito. Quindi la fatica fatta è stata certamente ripagata. Il conoscere i profili di queste 23 donne, sono 20 italiane, due cinesi e una di origine mongola, veramente mi ha fatto tornare indietro e mi ha fatto vivere la mia infanzia e capire bene per l'oggigiorno quanto vale l'essere aperti a chi è diverso da te per razza, per religione e per censo. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei, io Milano sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica senza pietà, ma cretina, e poi viva Roma, che ne sa. Ci dobbiamo fermare brevemente perché c'è una piccola pausa, ma torniamo con lei e il suo libro tra pochissimo. I figli di Enea. Siamo questa sera con Angelo Wu, imprenditore sino-italiano, figura di spicco della comunità cinese in Italia, a Milano in particolare, autore del libro L'altra metà del cielo, la vera storia dei primi cinesi in Italia e delle donne italiane che si unirono con loro in matrimonio. Angelo, L'altra metà del cielo, perché questo titolo? Mao Zedong riprese la frase da un vecchio proverbio cinese. Fu Mao impegnato nel riabilitare la figura della donna, di cui si impegnò per migliorarne lo stato sociale. Le donne non potevano andare a scuola all'epoca in Cina, le donne erano sottomesse, ancor prima, secondo una legge confuciana, erano più che mai sottomesse. E quindi Mao, con questa definizione, l'altra metà del cielo, intendeva dire che la donna è se stessa una parte del cielo che circonda ed avvolge la terra, e quindi fu proprio Mao a riabilitare la donna in Cina. E tra l'altro, di queste 23 storie, una è proprio di una donna cinese, l'unica che è riuscita a emigrare da sola senza il marito. Anna Chen. Anna Chen, brava, brava. Allora devo dire con piacere, Valentina l'ha letto e se ne ricorda. Anna Chen è una coraggiosa, un'eroina per l'epoca. Riuscì ad avere un permesso di uscita dalla Cina e immediato, teniamo presente che emigravano solo gli uomini, in qualche certo caso scappando, invece questa donna ottenne il permesso e di venire in Europa, dove raccontava, ed era vero, di avere un vecchio zio che stava in Olanda e che voleva raggiungerlo. Ci sono giorni che io vorrei dormire ed altri invece in cui io vorrei tornare, ma non ci riesco più. Se stasera ci sei tu, possiamo cucinare. Ci sono giorni che io vorrei buttare ed altri invece in cui mi va di disegnare, ma non ci riesco più. Se dopo passi tu che poi mi porti a bere. Un'altra donna che mi ha colpito molto, un'altra storia di una donna, è quella di Letizia Sismondi, no? Perché lei partì con il marito e andò in Cina. Questa è un'altra, questa è donna italiana, piemontese, che conosce suo marito, venditore ambulante a Porta Palazzo, e approfittando dei rientri finita la Seconda Guerra Mondiale, quindi parliamo degli anni 45-46, utilizza un viaggio gratuito in Cina messo a disposizione dallo Stato italiano per riportare in patria coloro che erano stati bloccati qui. Quindi lei sale col marito che le aveva proposto questa opportunità, ritorna col marito in Cina. Lei impara il dialetto guangzhounese, quindi una lingua che, per dire, a Pechino nessuno riuscirebbe a interpretare, e lì purtroppo si ammala il marito e si ingegna e diventa una venditrice ambulante in Cina e vende una pomata dermatologica raccontando che questa è una pomata che gli Hua Chao, cioè i cinesi immigrati in Europa, da anni usavano per lenire i loro disturbi della pelle. Questa è una donna coraggiosa, Letizia Sismondi. Un'altra storia che invece lei ritiene, se non proprio simbolica, certamente molto, molto interessante, è quella di una donna cinese, Zhang Jiuying, che quindicenne viene ceduta ad un cinese che sta a una cinquantina chilometri di distanza dal paese. Il marito cinese viene in Italia, apre la strada a un'attività artigianale e la fa venire in Italia, e da lì costruiscono famiglia, e devo dire che è stata una famiglia simbolica, e la figlia di Zhang Jiuying, Itala, è quella che ha creato questo gruppo WhatsApp nel quale tutti ci ritroviamo, ecco. E poi c'è la sua mamma, Giulia Bazzini. Per sposare uno straniero ai tempi si perdeva la cittadinanza, avevano bisogno queste donne di un permesso di soggiorno. Letizia, non sapevano neanche i miei genitori quando si sposarono, se non che nell'agosto del 38 la Cina viene messa nell'elenco delle nazioni con le quali gli italiani non potevano avere relazioni matrimoniali, quindi le donne o gli uomini italiani non avrebbe potuto sposare o una donna o un uomo cinese. Quindi questo in ragione del fatto che, mentre qualche anno prima c'erano buonissime relazioni tra l'Italia e la Cina, non possiamo dimenticare che Benito Mussolini mandò sua figlia e il suo genero a Shanghai a rappresentare l'Italia, scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone entra in alleanza con l'Italia e la Germania, però il Giappone è quello che invade la Cina e quindi per conseguenza la Cina diventa un paese avverso, un paese nemico all'Italia. E quindi tutte le donne che a quel tempo avevano contratto matrimonio con un cinese devono diventare, per poter ancora rimanere marito e moglie, devono diventare straniere esse stesse. E quindi mia madre, che è nata e cresciuta in Italia, diventa cinese e ha bisogno per rimanere di un certificato, di un permesso di soggiorno, perdendo tutti i diritti civili, anche quello di voto, che successivamente fu dato alle donne. Si accenna anche nel suo libro ai campi di concentramento dell'epoca. Sì, proprio per quando si cominciò a sentire l'odore della Seconda Guerra Mondiale, che poi sarebbe scoppiata, in virtù del fatto che i cinesi erano considerati nemici, anche se qualche anno prima amici, vengono tra virgolette rastrellati. Quando dico vengono, mi riferiscono al 60% dei cinesi, di quei ormai 400-500 cinesi che c'erano in Italia, vengono rastrellati in tutte le province italiane e portati in campi di internamento. Preferisco dire internamento ad evitare confusione con i ben noti e tristi campi di concentramento che conosciamo nella storia. Vengono internati in questi campi che sono soprattutto nella regione Marche, nella regione Abruzzo e anche nel sud dell'Italia. Non è una vicenda della nostra storia italiana che viene molto raccontata, questa? Questa vicenda non veniva raccontata. È stata oscurata volontariamente, secondo lei, o è stata dimenticata? Entrambe le cose. Certamente è stata dimenticata perché è una pagina infelice. Però, per fortuna, un importante sinologo, Daniele Cologna, nello stesso giorno in cui è uscito il mio libro, ha fatto uscire un libro suo dove mette il focus sui campi di internamento italiani. Per i cinesi. E devo dire che ne fa un'analisi approfondita e molto dolorosa anche, però che apre, se non apre gli occhi, quantomeno apre il focus un pezzo di storia dimenticata. E scusa, io non voglio fare male. Di queste 23 donne, solo due sono in vita, giusto? Sì, su due, 96 anni sono in vita. E quindi per il resto lei è riuscito a ricostruire le storie parlando con gli eredi di queste donne e con documentazione, immagino, cartacea. Con i figli, i nipoti e con pezzi di carta, appunti, lettere, che quantomeno per arrivare a capire come si chiamassero i mariti di queste donne, più o meno cercare di stabilire il paese di provenienza e l'anno di arrivo in Italia, perché non tutte queste donne si sposarono in modo tradizionale. Quando dico tradizionale, per esempio Giulia, mia madre, ma molte altre, dovettero, ci si sposava in un unico modo allora, in chiesa, e quindi mio padre, per sposare mia madre, dovette avere prima tutti gli altri sacramenti precedenti il matrimonio, e quindi si convertì al cattolicesimo, ma per studiarne i fondamenti, come avrebbe potuto fare, non c'erano libri o testi in cinese, e quindi fu il Pime, proprio ben vicino, Valentina, alla vostra struttura, in via Mosè Bianchi, che dove alcuni missionari conoscevano non solo il cinese putonghua, la lingua ufficiale, ma conoscevano il dialetto cintianese o wenzhonese, quindi poterono questi cinesi apprendere i fondamenti della religione cattolica cristiana. Allora, questo libro, che come dicevamo è stato pubblicato da Il Mio Libro, non è distribuito in libreria e secondo me per quanto è affascinante meriterebbe davvero un editore con una distribuzione in libreria, senza nulla togliere al mio libro, però è davvero una storia importante che parla anche del presente, no Angelo? Parla anche di noi, perché assistiamo anche in questi mesi, in queste settimane, a un pregiudizio nei confronti delle persone italiane di origini cinesi. Che cosa ci dice di noi oggi? Ma infatti il libro inizia con un arco temporale di circa 100 anni, parte dalla caduta dell'ultimo imperatore nel 1911 e arriva ai giorni nostri, dove la realtà, anche la realtà degli immigrati cinesi in Italia, è completamente cambiata e stravolta. Intanto grazie per avermi detto che questo libro meriterebbe una più ampia diffusione, ma lo sarà, al punto che ho dei contatti per editarne una edizione cinese. Questo libro vorrebbe anche in piccola parte contribuire a restituire non solo alle donne ma a tutta la storia dell'immigrazione cinese e dei cinesi che ora ci sono in Italia una valenza, una dignità che fino a pochi anni fa era inesistente. Ora, forse grazie anche agli sviluppi e alle fortune imprenditoriali della comunità cinese in Italia, forse anche grazie alla sempre più apprezzata cucina cinese, si parla familiarmente dei cinesi, ma una forma di pregiudizio comunque c'è, c'è sempre stata e per fortuna io credo pian pianino sparisca. Un aneddoto, Valentina, a casa mia, quando io ero piccolo, non potevo mangiare con le bacchette perché meno si faceva capire che eravamo di origine cinese e meglio era. Oggi mia figlia, più che quarantenne, è orgogliosa di aver avuto un nonno cinese e questo significa che la storia, se Dio vuole, sta cambiando i propri confini, sta cambiando il proprio visus e sta cambiando, io mi auguro, anche le visuali delle singole popolazioni. Grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, Valentina, e buona serata ancora. Buona serata anche a tutti quelli che sono stati all'ascolto di Figli di Enea, che torna sabato prossimo alle 21 su Radio 24. Rimanete con noi, una buona domenica e una buona serata da Valentina Furlanetto. Ciao.